amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri al giocatore forse più spettacolare degli anni 90 e sicuramente per un paio d'anni anche il miglior 4 della Lega. Compie 54 anni, The Rayman Schoenkamp. Auguri a Schoenkamp. Eh beh, è un bambino, è un 54 anni, quindi direi che è uno juniores per quanto riguarda il nostro Dream Team. Beh, lui fortissimo, genio, ma anche sregolatezza, se vogliamo. C'è stato questo episodio che ho riportato a proposito di The Legend Larry Bird in una conversazione prima della palla 2 con Schoenkamp, che è stato veramente per dire, no? La stima, l'autostima, la sicurezza di un grande come Larry Bird, che insomma ha ricordato a Schoenkamp: tu eri quello che schiacciava in faccia a mio fratello, vero, durante la high school? Ah sì, certo, ero io. Bene, stasera ho qualcosa per te. Larry Bird chiude con 41 punti, 10 rimbalzi, 11 assist. Ecco, questo senza nulla togliere a Schoenkamp, un atleta incredibile, un giocatore fortissimo. Seattle Supersonics. Abbiamo fatto balotta, abbiamo fatto banda, abbiamo fatto filò durante la pubblicità, ho già salutato. Intanto ringrazio Paolo per il contributo da remoto, ci sarà bisogno e come quest'oggi. Rinnovo i miei saluti e il benvenuto a Pietro. Allora, abbiamo fatto un po' di balotta fuori onda a proposito di grandissimi che sono passati per il Granducato. La puntata non sarà solamente incentrata su questa regione, che per la pallacanestro ha dato veramente emozioni e risultati anche ovviamente molto importanti. Tanti e tanta passione, si dice, no? Il toscano è sanguigno, è appassionato, è molto legato alla propria città, allo sport, quindi nella manifestazione agonistica è certamente molto molto caloroso. Tu hai incentrato alcune specificità fiorentine. Firenze non è esattamente all'interno del Granducato un'eccellenza cestistica, però ci puoi dire qualcosa di più a proposito della città gigliata, Pietro? Allora, facendo un po' di ricerca, perché comunque io nativo dopo il periodo di cui andrò a parlare, sono dovuto andare a recuperare tramite amici, tramite quel mezzo meraviglioso che è internet, quel decennio in cui il basket a Firenze ha avuto un ruolo più importante del solito, più importante sicuramente di quello che ha oggi, che è il decennio che va da 82 a 92. Soprattutto la parte finale di questo decennio, che è caratterizzata dagli anni della Neutro Roberts, sì, che è questa squadra che galleggia fra 2 a 1, tranne nell'anno di grazia 86-87, in cui arriva addirittura ai quarti playoff di A1. Le grandi emozioni, esatto, capitanata, sì, da J.J. Anderson, statunitense, grande scorer, guardia ala, mi confermerai? Sì, certo, un giocatore swingman si, esatto, chiama in questo caso, e tra l'altro presente anche a rimbalzo, perché è gran fisico e grande atleta, un americano di cui mi sono innamorato da subito, ho visto il suo esordio. Lui viene tagliato da Utah, a inizio stagione viene preso dalla società fiorentina e caso vuole che il calendario trovi Firenze in trasferta in quel di Piazza Azzarita, quindi ho visto l'esordio dal vivo in parterre, perché allora ero undicesimo nella Yoga Bologna, ero dietro la panchina e mi sono visto J.J. Anderson, veramente un fenomeno, giocatore che strabigliò. Scusa, ti ho interrotto. Ma figurati. Senti la storia interessante di come è arrivato a Firenze, perché il patron, uno dei grandi patroni italiani degli anni 80, che è Varrasi, che era Varrasi, patron di Firenze, va a vederlo negli Stati Uniti, perché come dicevi appunto J.J. Anderson viene tagliato a metà stagione e poi arriva in Italia. Va a vederlo negli Stati Uniti, la prima partita non gioca, la seconda non gioca, la terza gioca male. Varrasi va da lui e gli dice: io ho visto un clown in campo, sei te il clown. Ma allora l'ha messo veramente subito. Allora J.J. Anderson, esatto, l'ha presa sul personale, ha detto: ah, credi sia un clown, vediamo un po'. E in 4 anni successivi fa 29-6 di media in 120 partite. Quindi, ecco, la risposta è molto concreta, no? Veramente lui, giocatore eccezionale, avrà anche risultato poi a Cantù, mi confermerai dopo Firenze, ricordando che giocava in coppia con un certo John Ebeling, che noi abbiamo conosciuto a Ferrara, poi ormai accasato in Italia, uno dei centri offensivi più importanti. Beh, Ebeling e Anderson sono stati la coppia per Firenze più rappresentativa. Parleremo di USA all'interno del Granducato e non solo. Per quanto riguarda le emozioni personali, quella partita la vidi poi conoscendo tanti tifosi fiorentini, tra l'altro molto calorosi ma gentilissimi, e ricordo il loro coro. Uscì sconfitta Firenze perché la Fortitudo quell'anno, seppur in A2, era ben rappresentata, la coppia Douglas, George Bucci, toscano con Siena, grandissimo giocatore. Firenze viene sconfitta, ma ricordo l'entusiasmo dei toscani nel vedere il loro neo beniamino JJ Anderson, e sempre ogni volta che toccava palla JJ facevano questo coro. Nome completo: Mitchell Kate JJ Anderson. Tra l'altro, altra particolarità, si è giocato poco ma ha un anello NBA al campione dito. NBA, sì sì, perché lui entra in NBA nell'82 con i Sixers, e l'NBA ha queste regole particolari secondo cui anche se hai giocato metà stagione e poi ti scambiano durante l'altra metà, vinci l'anello, esatto. E lui parte con i Sixers nell'82, che poi saranno campioni, Sixers di Irving, di Malone, Tony, Chicks. Tony, sì, squadra discreta, ecco. Sì, buonina. Esatto. Dove JJ non vedeva palla, per essere sincero. Sì, ha giocato pochissimissimo, esatto, come hai confermato, però passa, aiuta. Canta. Esatto. Io campione NBA non so. No, neanch'io. Screen door slapping somewhere on a side porch. A sleepy morning way out in the boondocks. Stories are being told on the red play. Io ho molta invidia per gli amici toscani che hanno ammirato da vicino JJ Anderson, che come diceva il buon Adam Filippi, classico giocatore sexy, che possono piacere per il suo modo di giocare, elegante, atletico, realizzatore ma anche molto tecnico. Midnight sleep. Someone's playing something on backstage. The happy faces look out of the windows. Always something good on the red clay. Randy Brecker, fratello del più famoso, ma anche Randy Brecker, stiamo parlando di Bernard e Albert King. Non è perché Bernard King è un fenomeno tutti i tempi, Albert King che ha a che fare con la Toscana, dopo parleremo anche di questo, non è che certamente sia inferiore. Lui, Michael Brecker, al sax tenore, alla tromba il fratello Randy Brecker, la voce di Mark Murphy, Red Clay, la composizione di Freddie Hubbard. In the evening. watch the roses climb out of their earth beds. Lives lived on the red. Adesso tutto questo campanile io lo vorrei simbolicamente abbattere, tra l'altro io sono molto legato alle architetture, ma è guai abbattere un campanile fisicamente, abbatterlo iconograficamente come partigianeria eccessiva, anzi è bello conoscere anche tifosi di altri team. E ricordo che sapendo di non giocare arrivai, tu sei troppo giovane, ma una volta si portava l'estraibile stereo dell'auto con sé, perché ai noi se lasciavi la macchina in momenti di grande aggregazione era anche facile, oppala, che ne trovavi due all'uscita, hai capito? E lo dimenticai, un ragazzo di Firenze mi rincorse, poi io di buon passo stavo rientrando, un ragazzo di Firenze mi rincorse per lungo tragitto dicendo hai dimenticato questo, e tu la lasciavi. E quindi ovviamente abbiamo poi preso caffè assieme parlando e facendo balotta, perché la balotta esiste anche nel post partita, ed è altrettanto importante che la partita stessa. La partita dura 40 minuti, anzi durava all'epoca 40 minuti, la discussione e il confronto tra appassionati dura tutta la settimana fino alla partita successiva. Questo almeno quello che capitava nei tempi in cui eravamo re, ecco, si può dire in questo modo, dai, su. Vi è un'altra specificità sulla quale volevo parlare a proposito del Granducato. Bologna ha sempre avuto, dopo quegli anni diventò, anzi in quegli anni partì la definizione Basket City. Tutti parlano di Basket City, con Serragnoli da una parte, con Michael Ray Richardson, con la Fortitudine Eurolega. No! Quella non è una Basket City, quella è già ampiamente consacrata. La Basket City nasce da ben prima, ecco, nasce già dai tempi di Latte Sole, già si parlava e si intendeva, nonostante una differenza concreta, ma la passione proprio dovuta a questa differenza ha fatto sì che Bologna fosse poi Basket City, ma di questo ne abbiamo già parlato. Le due società principali, quindi, avevano un bacino di fruizione per il settore giovanile che veniva trasferito dalle origini, dai settori giovanili iniziali, a Bologna alla Foresteria. La Foresteria della Virtus mi pare fosse in via Cervellati, quella della Fortitudo adiacente alla Furla, prima veramente vicina alla stessa costruzione edilizia della Furla, poi si è spostata, ma sempre in via San Felice. Ecco, della Virtus ricordo un bacino di fruizione dove molti giocatori toscani, molti ragazzi toscani arrivarono per poi trasferirsi nel settore giovanile virtussino. Tra questi vorrei salutare e citare uno su tutti, Paolo Cappelli da Arezzo. Hai parlato dei Philadelphia 76ers, lui per me l'italiano più vicino a Bobby Jones in assoluto, giocatore fortissimo. Arrivò quindicenne a Bologna, per cui pensate, questi ragazzi che vengono completamente, non dico sradicati perché è una brutta parola, però seppur sempre vicino Bologna Arezzo, però è un bel cambiamento ritrovarsi in una situazione del genere. Io a volte pensavo allora cambiamento, nuovi amici, impegno assoluto, la scuola, insomma una trasformazione di vita importante. E poi giocatore anche lui veramente moderno, che secondo me, sapete che ho parole molto forti a volte, è stato rovinato da Messina, che è Pierluca Birindelli, un 2 metri playmaker nell'85, per dirti, giocatore anche lui da Pontedera se non mi sbaglio. E poi quando c'era un derby di mezzo la conversazione durava la settimana prima e anche la settimana dopo. Sì. La lista dei giocatori che Messina ha rovinato inizia a allungarsi anche un po' troppo, secondo me. Ricordiamo anche Morandotti, Augusto Pinelli, secondo me un po' danneggiati dal coach. Posso dire una cosa, che Pirindelli per il talento che aveva raccolto meno del previsto. Accidenti, se lo puoi dire, ma scherzi, ma ti dico solo questo: 2 metri, playmaker puro, playmaker puro. Ecco, per i più appassionati, si parlava di un Pittis quando Pittis probabilmente faceva ancora il mini basket, ecco, per darvene un'idea. No, Birindelli era un giocatore, poi caratterialmente adesso io non l'ho vissuto, io l'ho visto solo in campo. Se questo era suonato duro non ne ho un'idea, perché bisogna vedere anche in questa trasformazione da Pontedera improvvisamente a Bologna. 2 metri, belloccio, biondino, con gli occhi azzurri, era sempre fuori ci alla vuole sera. Un attimo. Ci vuole un attimo, hai capito? Quello che indubbiamente posso affermare è che avere come allenatore alle giovanili Messina, chiedere a Francesco Di Cesare, chiedere a Davide Diacci, chiedere alla lista che ha portato lo stesso Pierpaolo Onofri qua nei nostri messaggi da remoto, e beh, insomma, comincia a essere bella lunga. Ovviamente all'Istituto Psichiatrico Fioravanti, l'IPSIA, che ho cambiato come acronimo, non molto interessato alle lezioni di elettrotecnica, avevo un quadernino a quadretti su cui scrivevo franchigia, americani o stranieri d'appartenenza, poi con un asterisco mettevo a fondo pagina di questa lista i giocatori tagliati, con una gomma li cancellavo, li riportavo a fondo pagina e mettevo con una penna di colore diverso lo straniero o statunitense che arrivava a sostituire il giocatore appunto tagliato, così si dice. L'arrivo di JJ, purtroppo non ricordo chi JJ arriva a sostituire. È veramente una cosa questa, cioè io ci penso, ti rendi conto, è uno dei pensieri quando questa, per dirti la deviazione mentale che permane nonostante l'adolescenza io l'abbia passata da un pezzo. Paolo, tu ricordi chi ha sostituito JJ Anderson? Perché mi togli veramente un tarlo che è molto presente. Continueremo a parlare anche di settore giovanile. Allora, la Toscana come settore giovanile è stata veramente una fucina. Piccolo inciso, la Fortitudo pescava più in Veneto, la Virtus all'epoca, sto parlando di epoche appunto appena descritte, anche dal 79 a inizio anni 90, come ha parlato anche Pietro Rossi qua in diretta con noi, per cui il bacino di fruizione giovanile fondamentale per le squadre di Bologna hanno visto questa realtà più toscana all'epoca per la Virtus, la Fortitudo si spostava nella ricerca più in Veneto, Polbodetto, Cessel, poi adesso così a menadito potrei citarne altri, ne parleremo magari, avremo modo anche di conoscere la realtà del settore giovanile del Nord-Est, altrettanto importante. Io ricordo quando giocavo a Budrio in Serie C, la prima partita la feci contro il Chiesina Uzzanese. Che... e tu, ho visto che guarda, fai gli occhi lucidi. Quando... io la prima partita di basket professionistico che ho visto l'ho vista a Chiesina Uzzanese, perché amici di mio padre avevano dei biglietti gratis e ci disse, quando io e mio fratello eravamo un po' più piccoli, vi va di andare a vedere il basket dal vivo? Andammo, che bello. Andammo. Giuseppe lì a Chiesina Uzzanese, esatto, che è piccolissima, è un'uscita dire dell'autostrada, è un... Però vedi, la Toscana probabilmente ha anche queste realtà che sono per me da valorizzare, da riportare. Il Move to Groove, Ponte d'Era è un altro posto dove la passione è molto alta. Firenze aveva due squadre, adesso non so la situazione. Anzi, a proposito, lo chiedo. La situazione è triste, se non tristissima, perché vabbè, negli anni 90, a metà anni 90 iniziano i primi grandi problemi per appunto la squadra di Firenze. Per esempio nel 91 la Neutro Roberts, che comunque metteva dei soldi, sì, decide di lavarsene le mani, esatto, e lì iniziano tanto i problemi. Era sapone, esatto, lavarsene le mani e iniziano i problemi economici. Iniziano i problemi che non sono mai finiti. C'è stato un ultimo tentativo nell'estate del 2022, hanno provato a rifare la squadra partendo appunto dalle file che gli venivano concesse, ma già a gennaio del 2023 c'è stato l'ennesimo, certo, fallimento, e in questo momento non sembra ci sia, oltre la voglia, ahimè, i soldi, qualcuno che abbia un progetto che è solido, che non dia solo una da continuità, un punto di vista, esatto, tecnico, ma ovviamente anche economico, perché poi non puoi avere un progetto sportivo se non hai i soldi dietro, ecco, certo, nel 2023. La società allora era semplicemente Pallacanestro Firenze o aveva altre, non so, Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Olimpia Milano, Reyer Venezia? Firenze era semplicemente Pallacanestro Firenze. Poi sai, nella vulgata Firenze alla Neutro Roberts. La Neutro Roberts. Neutro Roberts. Wes Montgomery, in un disco in seconda parte di carriera prodotto da Creed Taylor per la Verve Record, questa è Down Here on the Ground, un brano scritto dal compositore Lalo Schifrin, che ci accompagnerà alla pubblicità. Ho messo questa musica un po' anche per addolcire quella che è la focosità che troviamo di noi toscani. Meno male. Quindi a tra poco con il Move to Groove ci sposteremo da Firenze, alcune attinenze anche con i settori giovanili, poi un episodio interessante che vi racconterò a proposito dei settori giovanili toscani. A tra poco. Dovrebbe essere arrivata al posto di Larry Kristojak. Tra l'altro giocava anche insieme a un altro buono che era John Ebeling, idolo ferrarese, grandissimo giocatore. Io mi emoziono perché finalmente si è risolto un arcano. Ascoltatrici e ascoltatori diranno: beh, vabbè, quindi a noi, beh, non mi dispiace, a me interessa tantissimo. Quindi è Larry Kristojak. Sì, ho fatto ricerca. Infatti, a Firenze giocò solo 9 partite. Larry Kristojak, guarda caso, dopo il taglio di Firenze rimase fermo e poi andò a Utah. Chissà che non ci fosse, da dove proveniva JJ. Oh, Kristojak, secondo me è stato un taglio tecnico perché lui, giocatore assolutamente un journeyman dell'NBA, cioè un mestierante, uno che sapeva fare bene il suo lavoro. Non penso che sia stato un taglio per motivi di rendimento, in quanto Larry Kristojak tra l'altro è un lungo, mentre invece Firenze necessitava di qualcuno che sapesse anche spostarsi e bene fronte a canestro, e JJ indubbiamente questa caratteristica c'era. E come, probabilmente, non probabilmente, anzi certamente sì, il Dream Team del Move to Groove ha risposto in maniera perfetta. Grazie, grazie Paolo. Beh, c'è un'altra Basket City, comunque, ed è in Toscana. Adesso mi spiegherai tu, perché io non ne so assolutamente nulla. Ovviamente ho smesso di seguire. C'era Pallacanestro Livorno, la PL e la Libertas Livorno. E anche lì il derby deve essere stato qualcosa. I Labronici, tra l'altro, non è che siano esattamente... No, esatto. degli stinchi di... Per cui immagino una grande... E la Peroni Livorno, per quanto riguarda... Ho grande rispetto anche per la Pallacanestro Livorno, ma la Libertas Livorno con la Peroni aveva una squadra, tra l'altro con una batteria di italiani, da Fantozzi, Forti, Carrera, giocatori importantissimi e veramente molto sottovalutati all'epoca. Perché ho parlato di Albert King? Perché ci fu lo scandalo sulla vittoria di Milano a Livorno, non solo per motivi del canestro che è stato annullato, valido, non valido, Forti, Andrea Forti in contropiede va a realizzare, ma c'è stato l'errore dal tavolo in cui fu protagonista un innocente Albert King, lo lasciarono in campo con raggiunto limite di falli, non segnarono un fallo ad Albert King. E insomma, non mettere a sedere Albert King, sapete bene che capisco tutto, ma giocatore per me non forte, fortissimo, e ha influito e non poco, Larry Kristojak, un po' come Luis Orr, erano quegli americani che fuori dal loro, diciamo, paese, nazione, non si trova tanto bene secondo me, perché questo non potevi non tagliarlo, è un talento fuori dal comune. Anche per me c'era, è fortissimo. Anche per me è qualcosa di extra basket attorno. Oh, per gli amici toscani, soprattutto in quel di Livorno, hanno visto da vicino il grande Wem dell'Alexis. Sì, e Wendell Alexis inizialmente in coppia con un matto scatenato che poi arrivò a Bologna, che era Jobinion. Non giocò le partite finali o parte del campionato perché ruppe con un pugno uno specchio, si tagliò una mano, qualcosa, sì, una roba di vero basket, insomma, però Wendell Alexis, un giocatore, ecco, un JJ più tecnico, per dirti, quindi andiamo su un bel po' come livello. Beh, anche un gran vincente. Un vincente, assolutamente, tenere la mentalità positiva e forte di Livorno e non esserne, per così dire, né in soggezione e allo stesso tempo né disinteressato, anzi lui è stato coinvolto completamente, insomma Wendell Alexis, uno di noi a Livorno, e se lo trovavano per strada io penso che lo portassero in trionfo, un giocatore clamoroso. Trombettista Donald Byrd dal disco Electric Byrd, questo incipit di brano nella svolta che lui ebbe passando già dal titolo all'utilizzo di sonorità più elettroniche rispetto ai suoi percorsi nel jazz hard bop per Blue Note. Parte alla nazionale americana nell'anno del lookout, dove l'NBA operò e quindi dovettero raggruppare gli americani sparsi nei vari campionati del mondo, e Wendell Alexis ne fece anche parte di quella squadra e non giocò neanche tanto male. Buongiorno Moot Groove, buongiorno Lino, riusciamo a collegarci solo ora ma non si manca, è l'appuntamento. Ultima volta che ho messo grazie intanto i pantaloncini fu nel 2012 alla 24 ore di Happy Wheels, e l'ora prima ci fu il revival del derby di Livorno con Gelsomini, Albertazzi, Silvestri e altri tre pullman di tifosi a seguito, ecco questo per dire. Il nostro Daniele Albertazzi nell'Halibert Livorno fece delle robe incredibili, giocò, lo chiamavano il terzo americano, in effetti fece due campionati clamorosi. Tu hai notizia, magari Paolo in questo caso, le due società hanno fatto fusione? Non saprei, considerato... Perché tu segui la vera pallacanestro. Sì, io non sono un passatista, ahimè, però ci stiamo lavorando. Però conoscendo gli amici livornesi, e in particolare conoscendo i toscani, raramente ci sono commistioni di questo tipo. Dura, A Siena, ok, portiamo a conclusione, ma ci sarebbe da portare avanti. Io Siena non l'ho più seguita dopo che appunto è arrivato Montepaschi, è stata criticata, ma ha fatto dinastia con diversi titoli. Ha vinto 7 scudetti di fila. Ha ammazzato un pochettino, ecco, già lì io non seguivo più. Io seguivo Mister Day Siena, quando c'era un giocatore fortissimo, che poi era anche a Torino, Mike Bentham, vabbè, qui Paolo potrebbe farne una biografia, giocatore eccezionale. Io non me la sento ancora di parlare di George Bucci, ci vorrà un po' di tempo. Allora, George Bucci Ercolino Bucci, idolo totale a Siena, era considerato veramente un giocatore che ha portato oriundo in Italia una pallacanestro e una tecnica secondo me inarrivabile. Io non me la sento, perché George Bucci è stato il giocatore con cui concretamente ho condiviso il parquet. Io ero il suo sparring partner ai tempi, e io un giocatore così forte, tanto più che non me la sento, se non che avrebbe tratti di darvi descrizione. È un po' come chiedere: parlami dell'amore, cos'è l'amore? Cioè, non ce la fai, sono cose talmente grandi, parlami di Dio. Sapessi dirtelo. Sì, se avessi le parole per descrivere tutto ciò, io ne farei una monografia. Ma veramente lui è stato il giocatore più forte con cui io abbia mai condiviso il parquet. Come allo stesso modo non ho condiviso il parquet, ma non riuscirei mai a fare una monografia di Larry Bird. Ne parlo così, ma ho molto rispetto per me stesso, ma soprattutto per queste figure, e con le mie parole non voglio andare a, diciamo così, rovinare quello che è. Basta una virgola sbagliata e non me la sento. Ma nella Mister Day Siena c'era George Bucci, tra l'altro appunto in seguito poi oriundo a Bologna nella Fortitudo. Grazie Lino, ti confermo, fecero il tentativo miseramente fallito di fondere le società. Ci metterei un bel asterisco, uno perché la pallacanestro italiana in quel periodo era veramente a livello basso basso. Sì. E poi ci sarebbe da aprire dei capitoli che non stiamo a aprire adesso, perché c'è troppa polemica. La rassegna stampa è dopo. Parlare per 4-5 puntate di quella Monte Paschi lì, quelli. E c'era anche un altro oriundo in quel di Siena, che passò in quel di, per quel di Siena. Chris Corchiani, da North Carolina State, mi sa che frase, non so se riuscirono a naturalizzare, fargli fare anche qualche partita con la nazionale, adesso non mi ricordo questo, però era lì lì per farne parte. Sì, ai limiti del percorso cestistico di interesse che io ho fatto, è vero. Grazie per l'ennesima volta, grazie Paolo, che gli americani pronunciavano Chris Corchiani. Chiudo ringraziando una piccola società in provincia di Pistoia, tra l'altro Pistoia, Lucca Montecatini, esatto, altre società, esatto, che non vogliamo dimenticare, citazione va, molto legate a Bologna peraltro. Io chiudo con una piccola società in provincia di Pistoia, non so se io auguro il meglio, ma sto parlando del 1982, inizio 1982, pallacanestro Pescia. Questa piccola realtà che aveva un settore giovanile incredibile. Che fanno? Ovviamente noi Virtus Bologna, propaganda, quindi 11-12 anni, tranne che qualcuno che potesse mettere il bastone tra le ruote, cioè la Fortitudo, le partite, non sto scherzando, finivano 112-9. Tanto a poco. Tanto a poco, come si dice al playground quando perdi il conto. Beh, chiedono l'amichevole e la Virtus, giustamente, anzi non so se Virtus o Pescia chiede l'amichevole, noi ovviamente figuriamoci, arrivano questi, ma sì, ma dai, sarà poco più che un allenamento, diamo una mano. Ecco, arrivano questi ragazzi, noi tutti con la divisa bianco-nera, la tuta da riscaldamento, questi arrivano in maglietta, pantaloncini, scarpe slacciate, ognuno con uno scudettino in mano, hanno dato la mano al loro avversario, hanno consegnato lo scudetto. Allora, hanno dato alla Virtus 20 punti il primo tempo e 20 punti il secondo. Oh, io alla fine ho detto: oh, dei ragionieri, questi qua. Ci hanno dato 20 punti il primo tempo e 20 punti il secondo. Grandissimi. Oh, e l'hanno vissuta in maniera assolutamente umile. Cioè, ma sono tornati a casa, l'hanno detto. Vai. No, sono tornati a casa sicuramente, l'hanno detto, ma sul momento. Cioè, ok, vi diamo 20 punti, ve li meritate, beccatevi sti 40 punti totali. sai, la Virtus poi sarà così, oppure penso che sia cambiato qualcosa nei settori giovanili, anzi me lo auguro, però abbiamo parlato di Messina. Ma sì, era una federazione, per così dire, proprio a proposito di federale, era un'organizzazione nazifascista, sapete, poi certi allenatori come Pilotti, poi arrivò Messina, ovviamente siamo stati puniti per 15 giorni dopo questa amichevole, sì, come se questo fosse costruttivo, no? Vabbè, ma di questa critica poi ne son piene le fosse del Mood Groove, ma torneremo a parlarne. Per quanto riguarda lo speciale Toscana, noi terminiamo qui. Perdonate le varie divagazioni per quello che è il Granducato, che ha lasciato in me bellissimi ricordi, nonostante i 40 punti col Pescia, meritatissimi peraltro. Ho giocato più volte nel girone toscano quando ero nella Serie C bolognese, e quindi diversi amici a Livorno. Talbini, 2-11, tiratore, giocatore fortissimo. Per cui direi, insomma, di concludere così, con questa specificità regionale nel Mood Groove. Torneremo martedì prossimo, abbiamo in programma altri percorsi, ovviamente, sempre tra basket, emozioni e buona musica. Domani il Voltiamo Pagina, a breve Liberi Dentro, anticipato dalle Dipè Enciclopedico, la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30. Non perdete il Vinile Quotidiano con Andrea Gozza, da non perdere, fino alle 12.30. Partenza 10:30. Io vi auguro un buon martedì, un buon ascolto. Grazie Pietro, grazie Vili, grazie Paolo. La collaborazione, Paolo, al quale faremo alzare l'ennesima palla 2 per martedì prossimo, e a voi un caloroso abbraccio da William Piana. A domani, ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao. Ciao. We'll be right back.